La Circle of the Space. Inizio dedicato ai viaggi intergalattici con queste atmosfere ultra siderali che ha edificato Roberto Faloci al suo progetto Phantom Ship. Ignoto, un lavoro del 2012, e anche il resto della produzione di Phantom Ship si dipana più o meno su queste atmosfere e con queste atmosfere, e quindi non mi rimane che consigliare un viaggio anche nel profilo Bandcamp e immergersi completamente nell'ottimo materiale ivi contenuto. Francesco Cornello a Bergamo, lo salutiamo. Wurnus Eilin, un pezzo di storia dell'industrial, anche loro dal Piemonte. Il maestro Eloquence Recycle, e se all'ascolto anche John Numa, figlioccio già talento del buon Marco Cristiantielli. Gianluca Becuzzi, anche lui una pagina importante della musica italiana. Andy Rivieni di Attualità Nera, di nuovo Jean Cloberto, Roger Kemper della Formaldehyde Records, etichetta Industrial Noise dalla Puglia. La Puglia di Giovanni Lisi, eccolo qua, Giovanni Lisi, e quindi Cordis Cinctis Serpente. Un'avventura sonica che già abbiamo conosciuto in passato, sperimentazione a sfondo ritualistico sacrale, e anche nel 2020 ci ha donato una perla che porta il nome di Mala O, un album autoprodotto. Da Malao ci andiamo ad ascoltare proprio il brano omonimo, una lunga traccia di 10 minuti dagli umori piuttosto cupi, come tradizione per questo interessante musicista pugliese. Un saluto a Giovanni Lisi. lugubre, spettrale, dissonante, malsano, e questi sono aggettivi che qui a Prove Tecniche di Trasmissione assumono una valenza positiva e sono tutti aggettivi che arricchiscono. L'ultimo lavoro di Cordis Cincti Serpente si chiama Malao. E sì, c'è anche profumo di coil, come dice giustamente Antonio Zoviet. Buonasera a Flavio Derbecante di Bipit Noise Cluster. Saluto ad Arianna Xena. Antonella in quel della Sicilia, bentornata. Mario Lino Stancati, ottimo musicista, attore, performer, che già vi annuncio avremo qui col suo ultimo lavoro la prossima settimana, un lavoro uscito attraverso la Nespless Sounds di Raffaele Pezzella. Lasciamo questi scriccoli sinistri che però ascolteremo anche la prossima settimana, questo ultimo lavoro per Giovanni Lisi, Cordis Cinti Serpente, un ottimo ritorno per questo musicista pugliese al quale tributiamo un grosso abbraccio. Torniamo al nord con Lupsi, lei è una ragazza di Udine, Lucia Cagliazza, ottima chitarrista, con ottime collaborazioni Simone Serafini, lo stesso Raffaele Pezzella, e al suo attivo tre lavori. L'ultimo album si chiama Primal Scream, che abbiamo già sentito 7 giorni fa. Anche per questa sera ho deciso di mettere 3 tracce brevi. La prima si chiama Fire Blades, poi Spirits e Creature of the Forest. Ancora questo ottimo Primal Scream per quanto riguarda Loopsy. Creature of the Forest, le creature della foresta. Sento di dire che Loopsy, Lucia Cagliazza, ha affrontato un deciso salto di qualità, un album forse più disturbato ed inquieto rispetto al passato. Un album che evoca gli splendidi fantasmi dei contemporanei Stockhausen, Luigi Nono ed altro, fino a Nars Whitwound, anche attraverso la chitarra trattata che riesce a creare queste atmosfere così, così importanti, così profonde. Album dedicato al proprio figlio Andrea. Una grande artista scoperta grazie a maestro Raffaele Pezzella, un artista che ci ascolteremo anche la prossima settimana, sempre da questo Primal Scream. Intanto vado a salutare Ernesto Dark Phoenix Galli qui a Roma, Isetual dalle parti di Milano, Enkil dal Piemonte, dalle parti di Alessandria se non erro, Audio Chaos, progetto calabrese di Gothic, New Wave e dintorni, un abbraccio a Simone Scalise. Ed è il momento appunto di Raffaele Pezzella. Finiamo questa sera il viaggio dentro Anthology of Contemporary Music from Indonesia, un compendio che fa il punto della situazione di una scena che ai più è sconosciuta, me compreso, di questi artisti che riescono ad unire unità etniche a naturalmente suggestioni industrial, sperimentali, talvolta anche di jazz d'avanguardia. Quindi 14 artisti di indubbia qualità è andato a pescare Raffaele. E allora questa sera iniziamo con Dadang D.B. Septiyan con Pambuka. Poi avremo due tracce brevi di Rulli Shabara, Irt Firjt, titolo che è un vero e proprio scioglilingua, per concludere Artmosf con Ululedak. Yes. alquanto mantrico da Dang Dui Seppiyan con questa pambuca, indubbiamente molto indonesiana, anche se c'è quel tocco di sperimentazione che chiaramente ne giustifica la presenza in questa compilation. Atmosfere che ricordano a qualcuno, a me ma anche ad altri, Claudio Rocchi, un genio degli anni 70. Ad ecco Armost, Hulule Duck. Atmosfere così variegate che hanno caratterizzato questa compilation dedicata all'Indonesia, la ricordiamo, Anthology of Contemporary Music from Indonesia. Dimostrazione pratica sono state le tre tracce di questa sera, Da Dang Dwi Setmiyan, il mantra psicotico. canto bitonale quasi a ricordarci Demetrio Stratos da parte di Rulli Sciabara e il noise industriale di Hardmost Ulu Le Dacche a dimostrazione di una scena assolutamente ricca e varia. Eh sì, un vero e proprio viaggio è stato questa compilation di Raffaele Pezzella, molto impegnato nel promuovere la sua etichetta al quale sta dedicando molta della sua vita. Un grosso abbraccio a lui e noi si va avanti. Artisti praticamente sconosciuti, a parte questo che sta andando, Seniawa, che già sentimmo un paio di anni fa qui a Prove Tecniche di trasmissione, e quindi adesso arriviamo a qualcosa di ben più conosciuto. Trattasi dei Laibach sloveni, e dei Laibach è uscito una rivisitazione del primo lavoro del 1985, Laibach Revisited, che ha molte tracce in aggiunta al lavoro originario di tanti anni fa, più parecchie versioni con la nuova sensibilità elettronica degli odierni Laibach. Ho cominciato a mandare infatti proprio il CD cosiddetto Revisited, e quindi ci ascoltiamo queste due nuove versioni di Java e Wir Personen. Oblast je pri nas.